9 in punto, la versione di Oscar. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Buongiorno cari ascoltatori, come vi avevo preannunciato ieri intorno a questa nostra sigla di apertura e chiusura della trasmissione, abbiamo aperto un sondaggio, poiché molti di voi assolutamente persuasi che il governo Monti ci abbia fatto entrare in un'atmosfera di rassicurante recupero di credibilità, del resto lo spread stamattina è a 308,5 punti, dicono basta pessimismo, Giannino rompa le scatole, ma cos'è questa cosa di non vedere che l'Italia poi non è la Spagna, non è la Grecia, diamo, pompiamo fiducia e rassicurazione. Io, come sentite nella punta di tono che uso, poiché molti sono i messaggi oramai anche di abrasivi, cioè sono amici come Velardi che dicono pianta, hai rotto proprio le palle e così via. E allora io ho aperto un sondaggio, perché può essere che io naturalmente sia come sempre fuori fase, e farò quello che decide il pubblico, come è giusto che faccia il conduttore. Il conduttore deve conquistarsi giorno per giorno, non è un interno e non è detto che ci tenga poi a restare, e quindi voi avete aperto sulla pagina del sito della radio a www.radio24.ilsole24ore.com, dovete ricordarvi di mettere www.radio24.ilsole24ore.com, c'è un sondaggio che vi chiede se volete che il sottoscritto, umile servitore vostro, continui ad aprire e chiudere coi doors, perché ancora la crisi non è affatto vero che è risolta, oppure se cambiarlo. E c'è anche una terza opzione, vediamo quanti di voi dicono sì ma cambia musica, e se questa terza ipotesi dovesse divenire prevalente, naturalmente poi apriamo il concorso per vedere che tipo di musica un po' meno pessimista ma non troppo ottimista mettere. Però questa terza opzione aperta la riserviamo a più avanti, perché altrimenti qualche sciocco, che già ieri non è mancato, che però già in centinaia avete risposto, dice che poi lo facciamo solo per il traffico. Del traffico sul sito non è un po' fregare di meno, il problema è semplicemente non deludervi. Allora, solo per dirvi, prima di arrivare al tema del giorno, che la crisi non è affatto finita. Intorno all'eurovertice di ieri, il vero filo rosso, che oggi non trovate sulla stampa italiana, puntualmente distratta da altro, dalla scomparsa per carità di Lucio Dalla, dalle lunghe code della TAV e dalle dimissioni dei vertici dell'ABI per il no alle commissioni sulle banche decretato dal Parlamento, per cui banche e Confindustria dicono questo è uno sconfinamento nelle prerogative del mercato. Però la stampa italiana è distratta sul fatto che l'Eurovertice ha avuto puntualmente un qualche oretta di tensione, perché il primo ministro spagnolo Rajoy ha tentato disperatamente di strappare, come abbiamo detto, essendo in condizioni di 2 punti di deficit sul PIL maggiore rispetto a quanto contrattato con l'Europa, di chiedere di fare subito un'eccezione al fiscal compact. La risposta è stata negativa, assolutamente no, e su questo è il Paese, trovate il vero giornale europeo di riferimento, come ovvio, perché la vicenda è spagnola. Trovate le dichiarazioni del primo ministro della Svezia Fredrik Reinfeldt e di quelle finlandese Jyrki Katainen, che dicono ma non se ne parla nemmeno, figurati, con tutta la fatica che abbiamo fatto a fare il fiscal compact adesso gli spagnoli arrivano e ci dicono che vogliono 2 punti di deficit in più. Naturalmente i giornali spagnoli, come il Paese, si diffondono sulle condizioni di un paese che purtroppo, anche se aveva l'obiettivo al 6% e all'8%, malgrado tutti i salti mortali che ha fatto, e difficilmente spiega al Paese, saremo in condizioni di rispettare questo obiettivo. Quindi, purché lo sappiano gli altri euromembri, se non ci danno la deroga esplicita, tanto noi andiamo avanti così. Ecco, questa è la condizione un po' in cui si trova l'Europa. Poi, senza farla troppo lunga, ci sono ancora code su molti siti europei allo Scopier della FAS, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, su sulla lettera di Jens Widmann, il presidente della Bundesbank, a Mario Draghi, presidente della BCE, per richiedere una collateralizzazione molto più solida del sistema Target 2, accusandolo altrimenti di essere troppo corrivo con le esigenze di finanziamento degli euro deboli. E qui mi fermo perché non voglio esagerare oggi con le vicende europee, per andare invece subito al punto del tema di oggi, è il mercato dell'auto. Il mercato dell'auto visto in una prospettiva che non è solo quella italiana, richiamo i dati di febbraio, vedono ulteriormente al ribasso le previsioni per il 2012 e nelle immatricolazioni per le maggiori case nel febbraio di questo 2012 in Italia vedono Fiat meno 20% rispetto all'anno precedente, Volkswagen meno 13,9%, PSA, quindi gruppo Peugeot Citroën, meno 13,8%, Ford meno 28%, General Motors meno 29%, Renault meno 21%, Hyundai più 21%, BMW meno 7%, Toyota meno 18%, Daimler meno 9%. Ma al di là del mercato italiano che va male, qui la prospettiva del mercato dell'auto, prima di arrivare al punto delle dichiarazioni di Marchionne, di come interpretare la sua recente intervista al Corriere della Sera, è esattamente il mercato europeo. Il mercato europeo che è gravato da una sovraccapacità, diciamo, per gli impianti siti in Europa quasi dell'ordine del 40% rispetto alle attese di vendita di mercati europei, che vanno così male per via del colpo sulla domanda rappresentato dalla crisi dell'euroarea, rappresentato dal fatto che ormai siamo due o a tre anni alla fine degli incentivi, senza alcuna possibilità ovviamente di ripresa, oltre al fatto che drogano il mercato. E quindi il mercato europeo ha in realtà quasi 40% di capacità produttiva in surplus. La differenza è che mentre gli Stati Uniti, con tutti i difetti del mondo e la loro sovraccapacità, che era anch'essa sopra il 30%, l'hanno affrontata con durissime ristrutturazioni, cambi di politiche salariali, ridefinizione dei perimetri aziendali e anche dollari del contribuente, perché questo è quello che è avvenuto per General Motors, è avvenuto per Chrysler. Noi la sovraccapacità, poiché non riusciamo a capire che l'auto è una questione oramai di blocchi continentali, non l'abbiamo affrontata in nessun modo in Europa. Anzi, i diversi governi nazionali hanno tentato di difendere che ciascuno tenga aperta la sovraccapacità a casa sua, perché questa è l'intelligenza della politica, ed è anche l'intelligenza della politica del sindacato italiano, che è lì sempre che critica dicendo bisogna convocare Marchionne e dire devi tenere qua e non devi tenere là, devi fare qua e non devi fare in Serbia. Tutta Europa più o meno così. E il problema è che quando c'è una sovraccapacità di questo ordine di proporzioni, ovviamente alla fine c'è chi imbocca qualche strada in precedenza, poiché stava in un gruppo boccheggiante come Fiat, tecnicamente quasi fallito, e ha costruito di due difficoltà, poiché anche Chrysler stava in ginocchio, una strepitosa opportunità, strepitosa, cioè A di sopravvivere, B di collegarsi a un gigante in severa ristrutturazione con i dollari pubblici in America, e adesso andrà avanti su quella strada. È una strada oltretutto cui farà bene la rielezione di Obama, che mi pare molto probabile, visti i candidati repubblicani e le loro divisioni, perché Obama ha molto investito su questa storia. Però ecco che, poiché c'è la sovraccapacità in Europa, fine della mia sintesi iniziale, e poiché Peugeot se la passa mica bene pure lei, migliaia di licenziamenti sono stati semplicemente posposti perché il presidente Sarkozy ha chiesto di andare dopo le elezioni, ma per essere chiari, ecco che anche Peugeot dice noi abbiamo dei problemi. Opel, per quello che controlla Opel, cioè General Motors, per quello che controlla in Europa, cioè Opel, continua ad avere dei problemi. Uniamo anche noi questa necessità congiunta di fare ristrutturazioni in Europa, ed ecco che nasce lo scambio, cioè l'ingresso di General Motors con una partecipazione in Peugeot Citroën, oltre alla collaborazione sui motori. Io credo che questa mossa abbia fatto un po' girare le scatole al Marchionne, perché mi avevano detto amici di fondi che si occupano dell'auto che era nelle possibilità e nelle intenzioni da parte di Marchionne una mossa analoga su General Motors per Opel, aveva semplicemente bisogno più di tempo, ecco, probabilmente arrivando sotto alle elezioni per chiederlo. Fatto sta che questa volta è stato PSA, i francesi, a fare questa mossa. Allora, può essere che questa interpretazione e la politica europea che continua a non capire e a chiedere l'impossibile alle case automobilistiche nazionali, tenere la sovraccapacità ciascuno a casa propria, non vi convinca e non convinca soprattutto i nostri esperti. Però è un pochino la mia tesi di fondo, e tutte le code di retroguardia contro Marchionne, contro la Fiat, per quanto io abbia molto criticato il fatto che la Fiat non aveva i numeri per investire, non aveva investito abbastanza, eccetera eccetera, però al di là di questo la realtà del mercato mi sembra questa qua, e quindi noi non possiamo che sperare che alla fine questa cavolo di fusione vada sempre più avanti, sapendo che la coda italiana sarà sempre più debole, ma non può che essere debole visto che in Europa ci sono alcuni che hanno investito e fatto severe ristrutturazioni aziendali, dato forza patrimoniale alle aziende, per capirci i marchi tedeschi che sono leader del consolidamento mondiale, c'è chi invece fa chiacchiere e distintivo facendo stupide polemiche politiche, meglio che Fiat e Chrysler si salvino comunque, ma il problema europeo resta grande come una casa e ci viene fotografato da questa vicenda di PSA General Motors, secondo me. Sentiamo però come la pensano esperti più autorevoli di me e come la pensate poi voi ascoltatori. Allora, chi abbiamo convocato stamattina? Abbiamo convocato innanzitutto uno dei fari che quando ci sono notizie vere da tirar fuori e da apprendere cosa succede sui mercati mondiali dell'auto, io vado sempre sul sito di Automotive News e mi leggo sempre Luca Ciferri, appunto, che è collegato con noi, lo ringrazio, buongiorno Luca. No. Poi abbiamo Giorgio Ursicino, collega del Messaggero, che segue da anni salone per salone, modello per modello, e che politica commerciale per politica commerciale tutte le aziende dell'auto. Giorgio Ursicino, grazie, buongiorno. E Tobias Spiller, che, come dire, lo conoscete, è corrispondente della Frankfurter Allgemeine Zeitung in Italia e sa anche di auto, questo è il punto, non si finisce mai di imparare da lui. Grazie Tobias, buongiorno. Buongiorno. Allora Ciferri, come la pensi su questo problema del consolidamento dell'auto in Europa e di questi ultimi sviluppi PSA General Motors rispetto allo stato, diciamo così, della fusione Fiat Chrysler e degli sviluppi che può avere? Ma credo che, come è stato detto, questa volta il tema della capacità, della sovracapacità produttiva non sia più rimandabile. Con la crisi del 2009, dopo il fallimento delle Lehman Brothers, con gli incentivi alla rotamazione nei principali mercati europei, si è sostenuto forzosamente la domanda per uno o due anni, sperando che, passato la Buniana, l'eccesso di capacità che già c'era nel momento del record storico del 2007 sarebbe stato riassorbito. Questo sarà il quinto anno di calo del mercato dopo la crisi del 2008, si ritiene che non prima del 2014-2015 ci sia un minimo di ripresa, ma anche per i più ottimisti la ripresa ci lascerà qualcosa come 3 milioni sotto il volume storico del 2007 e grosso modo 3 milioni sono una ventina di fabbriche da 150.000 macchine l'anno ciascuna. Qualche fabbrica dalla crisi è stata chiusa, quello che è interessante è che nella maggior parte dei casi per ragioni politico-sociali si chiudono le fabbriche fuori dai confini nazionali. Prima della crisi Peugeot ha chiuso uno stabilimento inglese che aveva Raytheon, ma non ha toccato quelli francesi, la Opel ne ha chiuso uno, ma l'ha chiuso in Belgio ad Anversa, e Fiat è stata l'unica a chiudere uno stabilimento a casa con Termini Imerese. Non celebrerei troppo la mossa della Fiat perché ne ha chiuso uno stabilimento a 140.000 macchine in Sicilia, ma ne apre uno questa estate da 150.000 in Serbia, quindi come capacità produttiva il problema non è risolto. Quello che però l'alleanza tra Peugeot e General Motors non affronta assolutamente è quello della capacità produttiva, cioè è stato detto che ognuno questi problemi di casa propria se li risolverà da solo, e quello che temo è che si risolverà di nuovo fuori da casa propria, cioè se dovessi fare una lista degli stabilimenti più a rischio metto quelli che hanno sia Peugeot che General Motors in Spagna, in quanto ovviamente si tratta di stabilimenti fuori dalla casa francese, dalla casa tedesca delle due aziende. Il commento sull'accordo tra America e Francia mi ha riportato indietro di 12 anni esatti, perché mi sembrava di rileggere alla perfezione quello che era stato l'accordo tra Fiat e GM del 13 marzo del 2000. L'unica vera differenza è ma nel senso che ti lascia scettico quindi? Mi lascio scettico per due ragioni. Intanto sono passati 12 anni, quindi c'è stata un'inflazione che ha fatto salire i prezzi, ma i risparmi che le due case prevedono dopo 5 anni sono esattamente 2 miliardi di dollari che 12 anni prima Fiat e GM prevedevano di raggiungere nel 2005. La seconda cosa è che l'accordo Fiat-GM era un po' più equilibrato, nel senso che GM comprò una quota abbastanza sostanziale, Fiat Auto il 20%, ma con quei soldi Fiat comprò un 5,1% di General Motors, quindi era un azionariato incrociato. In questo caso invece è GM che compra un 7% dei francesi, e i francesi hanno bisogno di quel capitale, infatti che fa parte di un aumento di 1 miliardo di euro del loro capitale, perché hanno una situazione finanziaria molto critica e non hanno la benché minima intenzione di avere un minimo di quota negli americani. Oltretutto sembra un accordo estremamente squilibrato, in quanto è chiaro che un'azienda come Peugeot, che fa 3 milioni e mezzo di macchine, ha dei guadagni di scala, di economia di scala, mettendo insieme con il più grande del mondo che è GM, che ne fa 9 di milioni. Dal lato opposto il vantaggio di scala che ottiene GM da unirsi con uno che è quasi un terzo di se stesso mi sembra modesto. Quello che mi stupisce di più è che un gigante e una bambinetta francese alla fine si dividono in parte uguali i risparmi. Ma sullo sfondo non c'è un primo passo, perché siccome tutti gli squilibri di cui hai parlato sono macroevidenti, come dire, quindi, ma sono impazziti da una parte e dall'altra, non è che un primo passo dietro il quale si può immaginare che c'è una soluzione per GM del problema Opel in quanto tale? Opel deve chiudere due stabilimenti come Peugeot deve chiudere due stabilimenti. L'accordo dice chiaramente che questa pulizia in casa propria le farà ognuno per conto suo. Non vedo nessuna accelerazione da questo punto di vista, e credo che sia un problema che probabilmente, se avessero avuto dei risparmi molto consistenti nel breve termine, si poteva rimandare un po'. Qui invece si dice che siccome i primi veicoli comuni verranno lanciati nel 2016, i veri risparmi partiranno tra il 2015 e il 2016. Quindi nei prossimi 2 o 3 anni di mercato pessimo in Europa, l'alleanza benefici immediati ne dà molto pochi. Tant'è che, devo dire, un'altra differenza con l'accordo Fiat-GM, quando si fece l'accordo, diedero sia i 2 miliardi di dollari di risparmi accumulati nel quinto anno, ma diedero anche una rotta di quanto si risparmiava il primo anno, quanto il secondo, quanto il terzo, quanto il quarto. Questa volta hanno dato direttamente la cifra obiettivo dei 5 anni, ma quanto si risparmia nel 2012 e 2013 non l'hanno scritto e non hanno neanche voluto dire agli analisti finanziari, che su questi li hanno martellati in una conference call di un'ora. Senti, nel frattempo negli Stati Uniti il procedere di Chrysler con Fiat come è visto dalla comunità degli analisti, degli esperti di settore? In Italia ovviamente è tutto condizionato dall'effetto, ci hai fatto capire che chiuderai altre 2 stabilimenti, anche con l'immagine della scelta di Sophie e l'idea che la madre che deve mandare decidere quale figlia prediletta dare ai nazisti per mandarla ai forni, tutti hanno capito, chiusura di Mirafiori. Ma invece negli Stati Uniti come si considera lo stato attuale del recupero aziendale? Lo stato attuale è molto buono. Chrysler ha fatto un più 40% nel mese di febbraio, che è notevole, ma soprattutto è importante perché sono cresciuti molto più della media del 40%, macchine molto grosse come la Chrysler 300, che da noi è venduta come lanciatema, il grosso SUV Gran Cherokee, quindi macchine ad alto margine, e io non sono analista finanziaria, ma direi che quel più 40% a volumi è stato capace di fare probabilmente almeno un più 60% a livello di margine di guadagni. Quindi là le cose vanno molto bene, qua vanno molto male, come vanno, devo dire, male per tutti in Europa. Cioè l'Europa bisogna dividerla a metà, come si diceva prima. Ci sono i tedeschi che esportano buona parte della loro produzione fuori dall'Europa e quindi sono abbastanza esenti dalla crisi europea. Ricordiamoci che la Mercedes, la BMW, la Audi hanno chiesto ai dipendenti tedeschi di ridurre al minimo le vacanze di Natale, perché c'erano ordini che venivano dall'America, dalla Cina, dall'Asia, che andavano ridotti come tempi di consegna lavorando di più, mentre i costruttori generalisti facevano delle belle lunghe vacanze di Natale per ridurre la quantità di macchine vendute sui piazzali. Questo purtroppo rimarrà, perché il mercato asiatico e il mercato americano stanno tirando, e quindi chi esporta ha questa valvola di sfogo importante. Chi non esporta, come gli europei, è chiuso in questo recinto di casa dove la situazione è molto difficile. Esportare dall'Europa, se è un giornalista, è molto difficile, perché in quei mercati i dazi su chi importa dall'estero sono dal 25 al 35, a volte anche al 50%, che sono sostenibili se si compra un'auto di lusso, ma sono insostenibili su una macchina di volume, la quale si fa scontrare con produzione locale che ha una differenziale di prezzo che la uccide. Ed è esattamente dal modello, per così dire, tedesco, che ripartiremo dopo la pubblicità, modello che vede Volkswagen, un programma quinquennale con i suoi 10 brand integrati e le piattaforme sinergiche dal più basso profilo, dall'utilitaria in concorrenza con quelle Fiat fino al più alto livello ovviamente dell'utilitaria. Lusso vede annunciare investimenti per 64-65 miliardi di euro nei prossimi 5 anni, di cui 18 solo per nuovi stabilimenti in Cina, e il passaggio, pensate, da 74 siti produttivi nel mondo a 100 siti produttivi nel mondo. Ecco, questa è la grandezza del modello Volkswagen. Lo dico sorridendo, perché ovviamente se pensate che questo non sia frutto di una intensa opera di razionalizzazione con grandi contratti di solidarietà chiesti ai loro dipendenti all'inizio degli anni 2000, e vi dimenticate un pezzo di strada, perché se rimproveriamo qualcuno di non essere capace di aver avuto investimenti paragonabili come scala di grandezza, bisogna ricordarsi che però anche loro avevano i loro problemi e chiesero ai lavoratori all'inizio degli anni 2000 bei sacrifici. Ohimè. Eccoci qui, eravamo rimasti alla differenza in due dell'auto in Europa. Chi se la passa male deve chiudere stabilimenti, fino a questo momento li ha chiusi fuori da casa propria, tranne Fiat, che ha cominciato a chiuderli anche in Italia, e chi con questa debolezza, come Peugeot o Opel, si mette insieme, anche lì dovendo chiudere due stabilimenti a testa, e probabilmente il rischio è che li chiudano tutti in Spagna. E invece andiamo a vedere il profilo alto di chi se la passa bene, perché diciamo ha capito prima della crisi che cosa bisognava fare, cioè i tedeschi. Piller, certo, dal punto di vista di Volkswagen, come nel segmento ad alto margine BMW e Mercedes, il resto della crisi europea può apparire un po' come una cosa dei fratelli poveri che non hanno capito per tempo, oppure no? La Volkswagen quest'anno ha fatto un utile netto di 16 miliardi di euro, così che di fronte a quello che ha fatto la Fiat con Fiat Lancia Alfa Romeo è una grande fetta del fatturato già, e non parliamo dell'utile, perché purtroppo non ce n'è stato molto di questo. Il vantaggio della situazione di cui gode Volkswagen adesso è che per 20 anni ha investito in tecnologia, ma anche è andato avanti per molti anni su un circolo virtuoso, investendo sulla marca, sulla crescita dei prodotti e sulla crescita all'estero, e ha avuto in quel senso un'unanimità di visione tra sindacato e anche guida aziendale. Mentre così 20 anni fa la Fiat e la Volkswagen erano alla pari, adesso al momento non c'è grande paragone, e la Volkswagen adesso gode di questa legge dei grandi numeri. Così se si immagina che la Golf attuale condivide il pianale con una decina di macchine che insieme sono 2 milioni di pezzi all'anno solo in questa classe delle macchine compatte, e allora per 2 milioni di macchine certamente si può comprare dei pezzi di alto valore a un prezzo più basso, anziché un piccolo produttore che produce nella stessa categoria solo 150.000 macchine e dopo certamente fatica a avere la stessa qualità a un prezzo competitivo. E adesso in questa situazione di oggi la Volkswagen fa un ulteriore passo, perché dice non facciamo più la macchina su un pianale, ma facciamo una cosa fatta a moduli, con dei parti in comune, perché alla fine al compratore non interessa se il serbatoio di 5 milioni di macchine e solo di due tipi diversi. Non la vede, o se il connessionatore è solo di due tipi diversi. Così mettono in un toolkit, così fanno un qualcosa di moduli che vanno bene per tutte le macchine dell'Apollo alla Passat. Sono 26 modelli e per questo dovrebbe risparmiare l'azienda varie centinaia di euro per ogni macchina e poi potrebbe anche essere più redditizia e più competitiva dando pezzi, dando moduli, elementi così migliori a prezzo più basso da un lato, ma avendo poi un altro vantaggio, crescendo ancora sul circolo virtuoso, perché possono fare ancora più modelli con un minor costo, perché se già tutti gli elementi della macchina sono pronti, ci vuole poco fare una scocca e fare un bel interno, se tutti questi moduli sono anche abbastanza variabili, così che si possono adattare alle varie esigenze di chi fa il design o di chi fa gli interni. Però avete capito che bisognava muoversi per tempo, per così dire. Ursicino, veniamo naturalmente in questo quadro alle tue opinioni su come dal punto di vista della produzione italiana si può pensare che sia lo sviluppo. Diciamo, l'ultima risposta dell'intervista fatta a Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera di Marchionne non lasciava molto spazio alle illusioni, è stato preso come un preavviso, ma un preavviso che se questi andamenti di mercato europei saranno confermati e alla luce della difficoltà che la produzione italiana si possa vendere davvero comunque i numeri sul mercato americano, per quanto il mercato americano stia andando bene, insomma si torna a situarsi verso i 15 milioni e rotti di unità l'anno. Però detto tutto questo, difficile pensare che siano i prodotti di questa classe a poter essere esportati tutti in America. Tu che dici, che come bisogna prepararsi? Bisogna prepararsi a chi fa il nostro mestiere, che deve spiegare alla gente, guardate che se ne chiudono altre due, a cominciare da Fiat in Italia, lui ha detto entro il 2014, quindi l'ordine del giorno significa l'anno prossimo, oppure no? Ma io penso che è abbastanza semplice, nel senso che per non chiudere le fabbriche bisogna mantenere dei volumi di vendita elevati, oppure nel caso della Fiat bisognerebbe addirittura rialzarli. Voi prima avete detto che la Volkswagen si è ristrutturata forse prima degli altri, in realtà, come ha sottolineato Tobias, la Volkswagen ha soltanto investito molto nel prodotto, nell'ingegneria, ha fatto i prodotti giusti e quindi ha mantenuto i volumi alti, li ha molto ampliati. Fino a 4-5 anni fa la Volkswagen aveva il 16%, 17% il gruppo del mercato europeo. L'anno scorso ha fatto oltre il 23, nel mese di gennaio ha fatto addirittura il 24, quindi praticamente ha preso la produzione che prima facevano altri marchi e l'ha utilizzata nei propri stabilimenti. Portando questo discorso qui in Italia, mi sembra che Marchionne, da sicuramente abilissimo comunicatore, ha introdotto questo tema nell'intervista del Corriere in questa fase, ma è un tema che è sul tappeto da tempo e che tutti quanti noi sappiamo che dovrà essere affrontato. Probabilmente in questa nuova ottica, anche con questo accordo che c'è stato fra GM e Peugeot, potrebbe essere affrontato addirittura a livello europeo, nel senso che anche i governi dell'Unione Europea nei prossimi mesi o nei prossimi anni cercheranno in qualche modo di aiutare la ristrutturazione del settore dell'auto, come è avvenuto in America, e non semplicemente trincerandosi dietro al fatto che gli stabilimenti non possono essere chiusi. Detto questo, premesso, come hai sottolineato tu all'inizio, che le macchine devono essere prodotte almeno nei blocchi continentali dove vengono vendute, salvo piccole eccezioni per prodotti di nicchia o per fasi transitorie. La Fiat lo scorso anno è scesa sotto 1 milione di unità in Europa. Quest'anno, con la crisi del mercato che c'è, che non è soltanto italiana, è anche europea, perché a gennaio il mercato europeo ha perso oltre il 6%, ma è probabile ipotizzare che a febbraio non sarà molto meglio, perché l'Italia e la Francia, che sono due dei mercati principali, hanno perso più a febbraio che a gennaio. L'Italia è vicino al 20%, la Francia addirittura ha fatto peggio, oltre il 20%. Quindi se la Fiat venderà in Europa quest'anno o anche nei prossimi, se non riesce a trovare qualche soluzione per riaumentare in maniera consistente le vendite, ma senza accordi con qualcuno, la vedo un po' difficile, avendo uno stabilimento in Polonia che ha già prodotto in passato, magari non soltanto per i marchi del gruppo Fiat, oltre 600.000 vetture l'anno, avendo un nuovo stabilimento in Serbia che, come ha sottolineato prima Luca, si può avvicinare alle 200.000 unità, avendo anche una fabbrica in joint venture in Turchia, è evidente che quasi queste tre fabbriche potrebbero soddisfare le richieste di mercato che in questo momento la Fiat ha in Europa. Quindi averne cinque come adesso in Italia è molto difficile. Lui ha parlato di due, ma potrebbero anche essere di più. In ogni caso, quelle da chiudere. No, vedo anche difficile il fatto di poter portare le macchine da un continente all'altro. Lui ha detto se riusciremo a vendere le macchine prodotte in Europa in America, ma questo qui è difficile, non perché non è capace lui a farlo, non è capace la Fiat, perché è una cosa che va proprio contro qualsiasi schema. Anche i costruttori tedeschi, che sono i più bravi a fare le vetture e quindi ad spostarle, per vendere in America hanno fatto gli stabilimenti in America, anche con marchi premium in cui i margini sono molto alti e in cui negli Stati Uniti non c'era praticamente concorrenza. Mercedes e BMW per prima hanno fatto gli stabilimenti negli anni 90, ma l'anno scorso l'ha aperto anche la Volkswagen e adesso lo farà anche l'Audi, quindi la vedo difficile. No, chiaro. Allora aspetta un secondo, ti interrompo qua e chiedo rapidamente a Tobias e a Luca Ciferri poi se ci credono a un'ipotesi che, per così dire, le case produttrici nell'Europa stanno, per così dire, allineando sullo scaffale per tempo con chiarezza alla politica, dicendogli guardate, bisogna che ci diate una mano ad affrontare il problema della sovraccapacità. Marchionne lo fa con l'intervista da una parte, Peugeot e Opel lo fanno con un accordo, ce l'ha spiegato Ciferri, che se dovessimo esaminarlo solo dal punto di vista tecnico dei numeri ci lascia tutti perplessi, perché è una roba che non ha molto senso per diverso taglio dimensionale, per le sinergie davvero che si portano a casa, tranne il fatto che sono le due debolezze europee, anche lì con stabilimenti da chiudere. Credi, Tobias Piller, all'ipotesi che la politica europea possa adottare una logica, diciamo così, di ambito di mercato europeo per dare una qualche mano alla ristrutturazione della sovraccapacità, oppure no, perché la posizione tedesca è tale che appunto dice ciascuno se la vede a casa propria? L'industria automobilistica è una delle più importanti in Europa e così è naturale che se ci sono dei problemi ci sarà lo strillo per aiuto dalla politica e che i politici anche risponderanno. Anche la Germania tanto non è esente, perché la collaborazione Peugeot-General Motors metterà ancora di più in crisi la Opel, che non è stato mai usato bene e non è stato mai intesa su quale può fare come potenziale da parte della General Motors. E ci potrebbe anche essere un'altra idea sulla Corea, perché certamente già tempo fa l'industria automobilistica ha detto che la Corea è vantaggiata perché non c'è reciprocità nei contatti. La Corea può esportare molto in Europa, Hyundai e così associata Kia hanno molto successo e anche la Opel viene messa in crisi dalla figlia coreana della General Motors, che una volta si chiamava Daewoo e adesso si chiama Chevrolet. In effetti, tra l'altro, marchi come Hyundai, Kia, cioè vanno benissimo anche in America o vanno bene anche in Cina, naturalmente, e in Asia. Ciferri, credi alla prospettiva di una ipotesi di risposta politica alla sovraccapacità diversa dal passato, di rimparlare ciascuno a casa propria nella politica nazionale? Ci credi? Ovviamente no. Credo che, siccome sono anni di elezioni, quest'anno in Francia, l'anno prossimo in Germania, in Italia, essendo anche elezioni che arrivano in un momento recessivo dell'economia, si farà di tutto per difendere i posti di lavoro e impedire o ritardare le chiusure. Credo che veramente sarà un'altra occasione in cui l'Europa dimostrerà di essere un'unione economica debole, ma un'unione politica praticamente nulla. Ritengo che tutto rimarrà un fatto nazionale e saranno i paesi dove i costruttori non sono insediati a pagare l'eventuale conto, e non credo che la Spagna, che forse è il grande paese che la crisi economica più difficile accederà di buon grado, che che siano tutti a regolarsi il conto lì a quel punto oramai, nel prossimo futuro vadano a chiudere gli stabilimenti da loro. Sul discorso di esportare all'Italia volevo aprire una piccola parentesi, però il vantaggio che la Fiat ha oggi è che importa un certo numero di Chrysler dagli Stati Uniti, quindi quello che è stato il problema valutario viene annullato da quello che viene chiamato il natural hedging, cioè siccome io importo in dollari, il valore dell'euro, del dollaro, me lo bilancio con le macchine che eventualmente esporterei dall'Italia, cosa che i tedeschi non facevano, perché solo più tardi hanno cominciato a fare degli stabilimenti che anche esportavano in Europa, quindi i tedeschi oggi, producendo in America, si sono messi al riparo dall'import europeo per quanto riguarda le variazioni del dollaro, quindi da questo punto di vista non è un problema, è il problema finanziario, il problema valutario è risolto. Bisogna vedere i volumi, bisogna vedere se le macchine abbastanza piccole che si pensano ad apportare dall'Italia all'America avranno successo. Convincono poi, perché hanno dimostrato con la 500 insomma di essere un po' diversi e lontani dalle stime troppo generose che aveva fatto Marchione, che ha dovuto ammettere. Ma in generale anche Ford, che ha portato la Fiesta, ne vende delle quantità assolutamente ridicole per un mercato di quelle dimensioni. L'americano, anche se la benzina oggi è vicino ai massimi storici, comunque accetta al limite una riduzione della cilindrata nella macchina grossa, ma non scende alla macchina piccola. Non scende alla macchina piccola, esattamente. Allora, io saluto e ringrazio Ciferri, Ciccino e Tobias Piller, perché adesso abbiamo le informazioni stradali e poi due telefonate prima della chiusura. Ripartono i Dorsi, io ricordo a tutti la pagina in cui rispondere al sondaggio, se volete ancora che proseguiamo con i Dorsi oppure no, lo trovate a www.radio24.ilsole24ore.com ricordo tutto, oltretutto, che poi questa trasmissione si può sentire in podcast, quindi scaricatela. Siamo sempre stati nei numeri abbastanza forti tra persone che ci scaricano in podcast, ma lo ricordo a chi non sapesse che si può fare. Allora, la mia conclusione è che, ragazzi, è ben chiaro quello che, se questi sono i numeri, gli stabilimenti in Italia Fiat chiuderanno. Vediamo se se ne chiudono due o se se ne chiudono tre. Io dico due e dico che il primo è Mirafiori, per i tipi di cose che si produce. Basta capirci, non scendiamo tutti dal pero. È giusto rimproverare la Fiat per 100 anni di aver goduto di privilegi assoluti e scandalosi, che l'errore della politica è stato dargli. Sta di fatto che però alla fine non è per i privilegi di 100 anni fa, fino a pochi anni fa, che poi si tengono stabilimenti aperti se poi non c'è nessuno che ti compra i prodotti. Questo è l'amaro che io metto in chiaro, perché poi non facciamo finta di cadere dal pero. I numeri sono questi. Virgilio da Ravenna, come la pensa Virgilio? Salve, finalmente posso dire la mia opinione su questo argomento. Allora, guardi, io le cito subito, lo stipendio dell'amministratore delegato della Volkswagen è molto inferiore del signor Marchionne, e già qui dovrebbe farne riflettere la cosa. Volkswagen, Peugeot, Renault hanno 13-14 modelli di listino, la Fiat il più recente diventa la 500 e ne ha 9. Ci pubblicizzano che fanno delle auto ultramoderne. Sono a metano, mia zia aveva una Simca negli anni 70, metano, in Romagna le auto metano le abbiamo da dopoguerra, le auto elettriche non se ne parla, quindi la Fiat è stata usata per salvare la Chrysler, non la Chrysler e compagnia cantante. Ne avrei da dire un fiume, cioè questo è signore. Sì, ma aspetti Virgilio, se lei dice la Fiat è stata usata per salvare la Chrysler, è come se la Fiat fosse stata piena di cassa e gli americani furbi se la sono presa. Cioè, la Fiat era tecnicamente fallita, cioè non so se è chiaro. Tecnologia che gli americani non ce l'avevano, non so se mi spiego. Poi la Chrysler, nel prestito che ha dato a Richard Obama, c'era che doveva esportare un certo numero di prodotti o di fatturato, è per quello che ci mandano in qua per dire i Fremont, i motori, li montiamo a Torino poi tornano indietro. Cioè questo signore qui fa il mago, ma se ci fosse una stampa seria, questa signora qui avrebbe già finito di raccontare delle cavolate. Ma la stampa seria, cavolate, visto che, guardi, mi scusi, perché io, questo è l'approccio che io capisco, ma non capisco dove porti. Cioè, se ci dimentichiamo, mi faccia finire. Se Marchionne, che è arrivato a Fiat tecnicamente fallita, che non investiva a parità di qualunque suo concorrente perché i soldi li aveva destinati ad altri, oppure se li teneva nella sua filiera e li portava su, oppure aveva diversificato in cose sbagliate. Cioè, non è che è quando arriva Marchionne che si determina tutto questo, c'era già prima. Allora, noi possiamo dire Marchionne ci sta sui coglioni perché prende troppi soldi e fa il cowboy, non mi piace neanche a me lo stile con cui si comporta, eccetera. Però alla fine, a oggi, che fare degli stabilimenti in cui si producono cose che non si vendono? Virgilio, che facciamo? Volkswagen ha investito in ricerca, ha investito in modelli, in qualità. Sono d'accordo. Volkswagen... noi con queste cose qui non le facciamo, è inutile che andiamo in piazza. La nuova Panda non se ne vende, io ho amici che fanno i rappresentanti Fiat, non la vendono, è cara. La 500, questo qui si è presentato dicendo vendo 50. Virgilio, ma tu te la prendi con questo qua? Ma se uno i soldi li ha sprecati negli anni prima e non li ha investiti, le cose non ce l'ha. Però non è che per questo dici mi tieni gli stabilimenti. Chi li paga? Il contribuente? Ecco, questa è la domanda finale con cui dobbiamo chiudere la trasmissione di oggi. Faremo un'altra trasmissione solo per sentire voi sulla Fiat, che non è che la cosa si finisce oggi. Oggi è il quadro europeo. La Fiat la prossima settimana, riapriamo la faccenda con le vostre telefonate, solo con vostre telefonate. Intanto appuntamento a lunedì.